comunque devi segnare che avevi prima, sono sicuro, non al 100, al 200%. È meglio così, meglio così. Adesso vedo un po' le misure, già ce l'ho a portata di mano, e vedo un po' se trovo il modo di sistemarla sulla ringhiera e di farla uscire e mettere, come hai detto tu, la parte, diciamo, esterna, quella più bassa, la metto verso l'esterno, se non diciamo impatta troppo, non lo so, non vorrei che mi dicessero qualcosa, capito? Adesso in questo periodo lascio questa, poi una volta che, capito, si sono abituati a quell'idea, se mi chiedono eccetera, gli dico vabbè, io ho la radio eccetera, a me mi serve per comunicare, la legge lo consente sul mio terrazzino, e non disturbo a nessuno, no, è importante non creare disturbi, capito? Sì, certo, mi hai dato un'idea adesso, vediamo un po', dai, poi già ti farò sapere. Grazie, fatto un attimo il telefono, è occupato, avanti già. Sì. Ma già che la sei piazzato, Carlo, secondo me è meglio che la metti sul tetto direttamente e non ci rimani da più. Chiedi il permesso agli altri condomini, ci parli, te lo dici che c'è questa passione e che ti farebbe piacere metterla sul tetto, tutto lì, poi vedi cosa ti dicono. Sì, sì, ma sul tetto, diciamo, io stavo dando un'occhiata, non saprei neanche dove sistemarla, capito? Perché le antenne TV, cioè noi abbiamo diciamo l'impianto centralizzato, e c'è sia la parabolica e sia l'antenna normale. Non riesco a vedere dove sono, capito? Sono dall'altra parte e non vorrei che fossero attaccate alla, diciamo, al muro superiore, diciamo, del terrazzino dell'ultimo piano, capito? Perché se poi si tratta di forare, bucare, sai, la gente gli chiedi, devo mettere un'antenna, ti devo bucare il muro, eccetera, mi sembra un po' invasiva la cosa. E forse, come ha detto Claudio, invece magari me la metto sul balcone, tanto mettere un'antenna da 4 metri, metterla da 6 metri poco mi cambia, capito? Se vedo che non dicono niente, faccio il cambio, magari in orari che neanche mi vedono, non se ne accorgono, poi una volta che ci sta un giorno, una settimana, un mese, due mesi, un anno, non la mollo più, la tengo lì e buonanotte. Sicuramente con quella di Claudio, con la Smartec, dovrò, diciamo, potrò migliorare sicuramente ancora di più il segnale. Beh, senza ombra di dubbio, la 78 quella lì, senza ombra di dubbio lo migliori. Vabbè, se vedi tu, se ti conviene metterla all'internato, ma sopra di te c'è gente. Sopra di me c'è una mansardina, è subito lo spiovente del tetto, però in quel tetto non c'è punto di mettere un'antenna, capito? E accedervi, capito? Non credo che si possa accedere da nessuna parte in questa mansardina, perché il palazzo sale nella parte interna, sale più in alto, invece nella parte dove sono io è più basso. Infatti da me, io sono al secondo piano e sopra c'è una mansardina piccola, invece dall'altra parte si arriva a 4 piani, hai capito? Si arriva al 4° piano e ci sono i terrazzi, cioè la gente lì c'ha il terrazzo, però dovrò vedere nel tetto, prima o poi chiedo dove sono messe le antenne paraboliche, se c'è la possibilità di mettere un'antenna, già lo chiedo, sì, già ci parlo con i condomini tranquillamente, però per adesso mi va bene così, tanto adesso ancora inverno eccetera, quando a buoni a tempus si dice si fanno questi lavori. Vai Tonino. C'è Antonio Particcio. Antonio, riprendi. Ah, ti conviene, io dico che ti conviene studiare una cosa, cioè ci tira qui di sopra, almeno, cioè via, ha risolto il problema per sempre. Ti conviene studiare un po' la cosa e capire come bisogna uscire fuori dal tetto, capito? Al limite te l'acqua di sopra, poi se al limite ce la metti lì e lavora anche così con l'antenna, non c'è un problema. Mi sa che è di più di una 58 quella, non mi ricordo adesso qua. più di una 58, di due dopo. È una 58. Carlo, io te l'ho chiesto perché ho detto magari se ha gente sopra di lui che abita, può stendere le lenzuola, si possono agganciare, capito? Allora che problemi, ma se non c'è nessuno no, va bene. Vediamo un po', dai. E oggi mi serata buona, dai, almeno non sta piovendo, anche se dice che ritornano le piogge. E stasera ho sentito il TG regionale, parlava insomma che i vaccini sono almeno al 70% di capienza, è buono, buono per l'estate, così non ci saranno restrizioni. Considerato che dovrà ancora pioggia, va bene. Vai Gianni. Speriamo che questo problema dell'acqua c'è ogni anno, speriamo che quest'anno si risolva. Adesso da lunedì dovrebbero cominciare di nuovo con la nettezza urbana, praticamente di raccolta differenziata. Io pensavo che il verde fosse per il differenziato, invece il verde è per l'umido. No Gianni. Il marrone è per l'umido. Giusto, marrone umido Gianni, il verde indifferenziata, non fare il ciabotto. Ma io il marrone non ce l'ho, a me non me l'hanno dato le buste marrone. Ma giù i bidoni grandi ci sono però. Mi hanno dato verdi, grigie e poi quelle grigie e quelle gialle. Ma guarda che giù nei bidoni c'è quei grandi che sono in strada, ma rocce. Allora, praticamente non sto facendo nessun miscuglio, perché nelle verdi c'è scritto quello che puoi mettere, le verdura, avanzi di cibo, ossa, tutte queste robe qua. Allora, io so che il verde tu l'umido non lo puoi mettere, punto e passa, pure marrone. Strano che non te l'ho dato. A me hanno dato 3 mastelli, quello marrone, quello verde e uno blu del vetro. E poi per le buste gialle, che se non sbaglio sono per la plastica. Cappa e bianco sarebbe che va per essere in strada, quello per la carta. Esatto, per la carta c'è scritto nelle istruzioni che puoi usare anche o una scatola oppure buste di carta e dentro sminuzzi tutto e lo metti là, capito? Dovrebbero ritirarlo comunque. E quelle verdi tu perché cosa li usi? Indifferenziato. Ma quelli sono i colori del cassonetto. Anche io pensavo che fosse gusitori, ma in quelle che c'ho io c'è scritto quello che ci puoi mettere dentro, e c'è scritto verdure, avanzi di cibo, eccetera, nel sacchetto, capito? Ed è quello verde per l'umido. A me allora non ci sono mai andato a prendere quei cassonetti per casa, perché per fare 150 metri nella cancella io preferisco l'avuto direttamente al Sassari. Appartengo al comune di Sassari, non mi frega niente, tanto a Sassari ci devo sempre andare, quando si riempie le buste e vado ce le butto, pazienza. Però sì, io so che è sempre così, ma dato che Carlo ce l'ha in casa, giustamente già quei 3 bidoni, e detto che il verde non è per quello che stai dicendo tu, giusto Carlo? Aspetta Carlo, a te le marrotte gli hanno dato le buste? Allora, mi hanno dato anche le buste, però Gianni sta parlando forse di buste verdi, capito? Poi i fusti sono una cosa, o mastelli che siano. Allora, mastelli a me hanno dato marron per l'umido, blu per il vetro, e poi mi hanno dato, qual era l'altro? Mannaggia, blu, verde e blu, non mi ricordo adesso l'altro colore, vaffanculo. Comunque mi hanno dato anche poi le buste, le ho buttate dentro, ancora non le sto usando, tutto in garage, perché i cassonetti qua sotto le hanno tolti, ma poco più giù ci sono, per cui io l'umido lo metto in una bustina trasparente, come ho sempre fatto, gli avanzi di frutta, avanzi di pasta, tutto quanto, lo metto in una bustina trasparente, lo metto nell'umido, poi il vetro, retro c'è ancora la campana blu grande, quando ho una decina di bottiglie le butto tutte insieme. E lo stesso carta, cartone, lo butto in quello bianco, capito? E la sto differenziando, ma la sto mettendo ancora nei cassonetti. Però pare che dai primi di febbraio, forse dal 2-3, toglieranno proprio tutti, anche gli altri. Pensavo che le buste fossero del colore dei cassonetti, se erano così, praticamente il verde sarebbe stato differenziato, il bianco, il cartone, eccetera. Ma non è così, non è così, perché nella busta dell'umido c'è scritto praticamente che è quella verde, quella dell'umido, c'è scritto che cosa bisogna mettere, c'è scritto avanzi di cibo, verdure, eccetera, eccetera, e quindi è quella lì. Posso? Attenzione, cosa si butta a me adesso? Io infatti no, che manco ma vicino, cioè mi metto il cappuccetto, mi metto, non mi avvicino il cassonetti, anche bisogno di delle camere, e se sei con la macchina, sei mesi, se tu butti le cose male, sei mesi di sospensione della patente ci sono. Bisogna stare ben attenti. Io ho sempre buttato le cose come bisogna buttarle, l'ho sempre differenziata, anche quando non c'erano questi cavolo di mastelli, io l'ho sempre differenziata la roba. Allora scusa, oh Carlo, dimmi Tony. Hai detto che i cassonetti che sono in strada li tolgono tutti? Esatto, qua li stanno togliendo, sotto casa mia ce li avevo proprio all'inizio di via Pola. Io faccio angolo via Pola, no? E ce li avevo proprio sotto il terrazzo, li hanno tolti già da una settimana. Invece più giù, vicino a casa di Marco, lì ancora ci sono nella piazzetta di via Prunizzetta, dove c'era il vecchio negozio di scarpa, che ci sono quei parcheggetti, lì ancora ci sono, però pare che li tolgano dal 2, che è domani, dal 2 li faranno scomparire tutti pian piano, e il comune è intenzionato a estendere tutto questo servizio in tutta la città, quindi i cassonetti penso nel giro di 6 mesi scompariranno un po' da tutto Sassari. Scusa, e la commessa dove la spazzatura dove la butta la persona? E niente, daranno i mastelli e si butta così, faranno il ritiro così porta a porta. Tony, brucia tutti in campagna, guarda. Aspetta, e allora tutti i mesi che hanno comprato, che ha preso i cassonetti, li svuoto, cosa fanno? Li svettano? Cioè, fammi capire, perché sono parecchi soldi che buttano così. Esatto, ma poi anche fare il porta a porta penso che comporti anche l'assunzione di più personale, perché comunque perdi più tempo, perché sono mastelli piccoli o le buste di carta, hai capito? E quindi ci vorrà più tempo a fare la raccolta porta a porta. Prima avevi i punti fissi, andavi col camion, agganciavi i cassoni e buttavi dentro. Adesso in effetti tutti quei camion lì non lo so cosa ne faranno, li convertono oppure li rotameranno, che ne so. Ah, io abito in campagna, per buttarla via, se non vedo più persone ti faccio la corsa. Tutte le buste che io di spazzatura vado dove abita il sindaco e dove ho trovato la porta. Poi aia, e infatti ci dobbiamo abituare a questo nuovo metodo di smaltire le cose. Poi le buste sono piccolissime, non bastano per niente. Io che faccio praticamente, quando pulisco gli uccelli ho la carta sporca che devo buttare nell'indifferenziato, ma solo se butto la carta non ci sta più nulla. Io ho comprato le buste 90x120, sono giganti, metto tutto dentro, quando peserà 20-25-30 kg, vado sotto la casa del sindaco. Non le puoi usare quelle che danno, hanno il codice, in base al codice rintracciano la persona che ha buttato la roba, quelle lì non si possono più usare. già io di quelle non ne ho neanche uno, io le compro le buste, quelle grandi, io metto in campagna, a vero posto di me lo fiaco in casa, io ce l'ho fuori sotto la veranda, ce l'ho le grande, quindi se muovo tutto dritto e ciccia, vado e te la conduco, quando c'ho il cassetti, vado, va a vedere il sindaco, fa la farmacia e ce le muovo sotto, no, vai a dire, poi, a me non c'è nessun scontrino, perché gli scontrini ho sempre il vizio io di bruciarli, come arrivo a casa, pensa un po', non c'è nessun codice e si rabbia la luce, si rabbia la potenza mia. Attenzione, che ci sono le telecamere, che cazzo c'è, guarda, ti mando il servizio se vuoi, cavolo, in certi punti ci sono le telecamere, ti prendono la targa di Nibignano, 6 mesi da battenti, attenzione, non ci scherzare molto, con queste cose. Tanto, se mi prendono la targa del fotoschino, non l'ho capito io, eh. Io la macchina non l'ho mai messa vicino ai cassonetti, quindi, ho anche cappuccio, cammino con la mucca in mano, vedi a dire. Le ritorni, bisogna delle camere, capito? Anche se tu non la metti lì, la metti più avanti, ti rimetti che già ne non ha testi, te lo gioco di denti, da poi sempre la mattuglia in giro, no? Che è girendo da un po' guardi di tempo, infatti in certi orari no, bisogna guardare, però è così sì la veloce. Te lo gioco di denti, sono dei passaggi, io buttavo detta così, sono anni e si devo buttare, e poi già me ne so campagni, poi io sono tipo che posso fare anche 20-25 km per buttare la spazzatura mia, non hai capito? E cambio sempre zona, per dire se lo voglio fare, va. Tony, ma tu non la fai la differenziata? No, io faccio tutto unica, perché io sono super. Hai visto? È proprio per quelli come te che hanno messo questo servizio, perché se rispettavano la differenziata tutti quanti non l'avrebbero messo. Se Gianni, leggevi tutti i giornali ogni santo giorno e leggevi l'articolo che è successo quando è, che 16-12 anni fa in via Marco, questo è convinto me. So, un bel po' perché è molto vecchio di fare la differenziata, dopo che è sceso giù, è passato il cambio della potenza e ha buttato tutto insieme dentro e infatti ha fatto la denuncia per dirti no, quindi andrò già, l'abbiamo pedico già. Che tipi come me, cosa si dice? Allora, a me mi hanno rotto le balle e ti spiego perché. Quando lavoravano certe persone che conoscevo anche a Trucco Reale per la contezza indifferenziata, padre di famiglia, li hanno licenziate, poi le dobbiamo differenziare noi, ma qui c'è un macchero, da lì e da me, e parla un po' come di chi è la contezza. Ecco, se mi padre non pippa. Fino adesso so io dove la sto buttando, certo non ve lo dico a voi, è raro che la butto nel cassonetto, non vi preoccupate. E poi ti cassicheggio con la macchina, certo. No, vedi. Questi qui sono quelli che buttano la mondezza di nascosto. Prendo la parte mobile e vai. Ma che ti vicini, sono cacchi tuoi. Buonasera, attore. Ben sentito. Fate da bravi e differenziate bene. A me mi dovevo pagare per fare la differenziata. Lo so, è un casino, Però chi si va a tanti sono girenti, so. Cioè, è un casino umano, cioè, si dà ciappa nei guai. 180 euro di multa gli hanno messo a quella che abita vicino a casa, che tra l'altro fa la differenziata, ma ha messo praticamente la mondezza in una busta della spesa. L'hanno trovata a 180 euro di multa. Invece un mio amico che abita all'Edenbice, praticamente lui ha il giardino e ha richiesto al comune il compositore, non so come si chiama quello lì, per fare il compost, capito? E praticamente l'umido lo butta lì dentro, addirittura dice che il comune gli fa pagare il 5% in meno di tari perché ha richiesto questo contenitore per fare il compost, capito? Quindi l'umido non glielo ritirano e lui tutto ciò che produce di umido, pezzi di verdura, di frutta, pasta, cassa, butta tutto dentro e non so, dopo un certo tempo lo puoi usare come fertilizzante, capito, nel terreno. E se tu abiti in campagna e hai la possibilità di metterti questo contenitore per il compost, praticamente hai una riduzione del 5% della tari, questo mi ha detto lui, ed è comune di sorso quello, perché lui abita in quella zona lì. Wow. Sì, perché la usano per fare i concimi per il terreno, la roba lì. Esatto, e quindi dice l'umido, butta tutto là e poi lo usa come fertilizzante. E poi lui differenzia solo plastica, carta e vetro. Ma ho visto che anche a Plattamona hanno messo quel macchinario grande dove si butta la valdetta, no? Non ci avevo mai fatto caso, dove ci sono tutti i tipi di rifiuti da buttare. Sì, sì, ce ne sono in diversi punti, ce ne sono su Al Tappettino, in Piazza Le Segni, perlomeno io mi ricordo quelli perché passo spesso da quelle parti, però ne ho visto anche in altre zone della città. Non so come funziona, se ci vuole la tessera sanitaria oppure devi chiedere qualche tessera particolare al servizio, insomma, dei rifiuti lì dove stanno dando le buste, penso che ci sia lì qualcosa da inserire, perché con la carta d'identità non funziona, io ci avevo provato e qualcuno ha detto forse con la tessera sanitaria, ma non credo proprio, penso che ci voglia un'altra tessera da richiedere. Io intanto domani devo riandare dove danno le buste, perché quelle che mi hanno dato si aprono in due, ho provato a aprirle e si aprono tutte in due, sono tutte difettose. Se le cambiano, forza, gliele fai vedere, te le cambiano, te le danno nuove. Che ne so? Sono le 19:20 quasi. Che pagata. E questo si sta lamentando, vuole scendere giù, e già vuole andare. Vuol dire che ha bisogno, se si sta lamentando, anzi, quello è buono, poverino, si lamenta, vuol dire che ha necessità. Claudio, ci sei ancora? Tanto riprendi, comunque è tutto un inghippo, perché io ti mando la fotografia delle buste verdi, sono quelle per quelle verdi che dovrebbero essere quelle per il differenziato, perché il colore del differenziato è verde del cassonetto, sono praticamente quelle per l'umido, e infatti le avevo messe nel differenziato, qui ho letto che c'era questa roba qua e mi ha fatto cambiare idea. Ho capito, lo so. E adesso in altri posti, per esempio ad Alghero, come a Sassari, all'inizio tutti mugugnavano, adesso sono più di un anno e mezzo che stanno facendo il porta a porta, hanno eliminato molti cassonetti, e dice che la gente ormai si è abituata e loro non trovano niente di strano, capito? Io invece ci sono andato alcune volte ad Alghero quest'estate e la mattina era pieno di mastelli sui marciapiedi, capito? È un po' una porcheria. Ma già, si sente teso, poverino, scendi, non vuol dire che ha bisogno, tu guardi l'orario, ma a volte i cani hanno bisogno anche prima. Sto andando, non ti preoccupare, che giorno... Belluccio, che giochino, che regino. E niente, comunque, Carlo, sì, poco fa Claudio si è spostato per la bassa, ho sentito le sue automotivazioni tua e ho percepito che ha detto solo telefono bianco. Niente, dove c'è questo, io già mi arrangio a buttare la strozzatura, non ho bisogno di qualche volta a cassonetto si fa, mi piace camminare con la bustola in mano e ci butto via tutto, cassonetto verde, quando mi toglieranno vuol dire saprò io dove mettere, non c'è problema, io questi problemi proprio non me ne metto. Avanti Antonio. Io comunque sia devo restare tutto com'era un po' di anni fa, cioè, tu non puoi, come si dice, io non posso pagarti che l'ultima volta quanto mi è arrivata, che ci costa 300 euro di tari, cioè, e poi perché cosa? Poi mi devo mettere la cosa in casa, un casino, cioè mi devo mettere tutti i bidoni, un casino, cioè se non hai spazio poi una cosa in mezzo alle balle, fiaghi e cosa, cioè, non non mi sembra una cosa normale. Cioè, ci sono gli uomini, li pagate e fanno una differenziata. Cosa siamo di dire? Infatti io ho bisogno da 100 litri grigio, quei grossi, ho avuto 90 di circonferenza per 1,20 m, sono quelli pre-condominio praticamente. E trasparente eccetera, io ci butto tutto lì dentro, quando è pieno la leggo e via, e butto via. Ah, ve la posso a prendere questi bidoncini una parte all'altra, però tante, non ce l'ho mai dato io, alle concetto a prendermi in croce, mi hanno chiamato, ci vuole che devi ritirarsi, sì, se ne tenga lì, faccio il favore, capito? No, che non ti abbiano contravvenzionato. Esatto. Che non ti abbiano contravvenzionato. Assolutamente, non mi è mai fatto niente, tranquillo. Io la spazzatura la sto pagando, quindi. E sì, quando la sto pagando la butto là. Quando toglierò le cassette, vuol dire non le pagherò più e c'è la biglietto. Io non ti sarò nel bolso. E dice perché io vado al ristorante a mangiare, ma se mi avviso. È un casino, poi che ci regolano questo. A me mi sembra un pochettino anche troppo eccessivo. Dice che se ti bitingheggiano una macchina buttando la cosa sono 6 mesi di sospensione della patente. Cioè, ma io, cioè, quello secondo me è un accadimento pure. Cioè, mi sembra una cosa troppo bizzante a me. Eh sì Gianni, ho visto la busta che mi hai mandato, il cassonetto, la busta verde. Hanno fatto casino, carne rossa, verdura, frutta, uova, cazzo, pasta, eccetera. Cioè, le buste verdi. Ci hai imparato che le buste, i cassonetti verdi sono indifferenziati, ma non sono per l'umido, perché dove abita la mia ex praticamente già i bidoni fuori per strada, marrò per l'umido, e quando vado io a volta, come le cito per la buttare la spazzatura, questo è l'umido, ok, vado nel marrò, c'è che scritto, cioè, boh, oggi ho preso il bianco per la carta, già per la plastica, e il verde indifferenziato, e differenziato ci butto un po' tutto, infatti, non si comprende mia butta. Ciao a tutti, dai, io sto andando via, guarda che ti ho mandato la fotografia, che io di cazzo a te non ne dico, guarda. L'ho letto, te l'ho appena detto già. Cioè io l'ho letto, non è che metto le cose così, però quello lì praticamente frega la gente, perché se si basa nel colore dei cassonetti dovrebbe essere, la verde dovrebbe essere per il differenziato, invece no, ma loro non me ne hanno dato di buste, me ne hanno date gialle, trasparenti e verdi, tre tipi. La mia storia sta dicendo l'altro, ma non che è per l'umido, tanto è vero che c'hanno i cassonetti che è umido. Ma noi abbiamo quelli interni, Tony, dipende da come, da quelli che c'hai. Se tu hai quelli interni con le ruote, quelli più grandi, sono diverse le buste, capito? Infatti i cassonetti che ci sono al centro storico, non sono piccolini, capito? Confronto a quelli che sono invece nelle strade più larghe, diciamo, come via Lune Sole, eccetera, via Napoli, capito? Quindi automaticamente sono i cassonetti più piccoli, ce ne sono di più, 4-5 cassonetti anche sì, però sono tutti il punto dove la macchina può posteggiarsi, sono quei cassonetti. Basta il motocarro piccolino e se ne carica e scarica tutto. Perché da un lato che peso vuole andare, io, cioè, guardo quello che c'è scritto così, io li metto qui, dico, va bene, ciao. Ciao Gianni, alle prossime, buona passeggiata col cane. Grazie, ciao. Ciao Gianni, alle prossime, buon tutto. Fai un fosso nel terreno, butti tutto lì, tanto si trasforma in concime. Riccardo, io ripeto, non ho mai avuto questi problemi qua. Qua appunto va l'elettrodo, ho detto, sono un tipo che mi piace passeggiare molto in macchina. E io quando voglio vado anche delle parti di stintino, pensa un po'. Ehi, ce ne sono strade, vado verso Urbia, non me ne frega niente, io passeggio, la benzina non c'è qui, non c'è di gasolio. Per dire, quando toglierò lì farò così, quindi prometto, non ne ho. Tu penso no, avevo caricato il bussone per buttarlo via. Me lo sono dimenticato in macchina e stavo andando a mia figlia posata. Vicino al muro. E infatti quella spazzatura ritorno al buio e ce l'ho buttata sì. Sì, vabbè, anche io già mi sono sempre aggiustato. Capito. E niente, adesso vediamo, non è che a me mi costa niente, tanto io plastica ne produco poca e anche di vetro, ma ma per riempire quel secchio ci impiegherò 2 mesi, capito? Per riempire il secchio del vetro. E quello che mi importa è l'umido, però il ritiro dell'umido lo passano 3 volte la settimana, capito? E quindi già va bene. E d'estate che la buccia, per esempio, dell'anguria, del melone, che quella puzza se la lasci nella spazzatura, quella conviene farla fuori subito, capito? E prima, quando c'era il cassone dell'umido, andavi, buttavi là, capito? E fine della storia. Adesso invece ti costringono a tenerla a casa, tu la metti nel terrazzino, capito? Col caldo estivo, sai, gli odori e insomma, e poi la gente si lamenta, perché dove te li metti? Dentro casa puzza, li devi mettere nel terrazzino, magari poi quello che c'è su si lamenta, che salgono gli odori, capito? E mi sembra una mezzo porcheria comunque, dal mio punto di vista, questa raccolta differenziata come la stanno organizzando, perché la gente non è abituata e vediamo cosa ne uscirà fuori. Comunque, dai, a te il microfono. Vedi, allora c'ho ragione io, quindi inutile, io c'ho, allora, a metà di campagna, non dà fastidio a nessuno, c'ho sotto la veranda, c'ho il bidone grande, allora io procedo così, odori non li senti. Tengo una busta piccola in mano, in casa, e ci butto un po' di tutto, giustamente, luce di anguria, di melone, come stai dicendo tu, poi chiudo, la leggo, e quando è piena, la busta lei non ce la fa più, allora la leggo e la butto nel bidone grande che ho, che c'è il bottone di 1,20 m. Quindi io una volta a settimana butto via la spazzatura e quel bussone diventa pieno. Poi dentro il bussone ci sono tante buste, quella della spesa, butto dentro lì, capito, faccio il nodo ed è più pulito. Non senti né odore niente in casa, capito? E neanche fuori sopra la veranda. C'ho il tappo, mi sono fatto quel tappo ermetico, bello, e quindi non è bisogno che all'aperto così, no, assolutamente. Ci ho fatto il tappo, quindi. E purtroppo, Carlo, bisogna fare così, è inutile che questi qua, la differenziata, guarda che loro, non andiamo con vettore, ovviamente, tutta la spazzatura, eccetera, loro producono energia fuori il continente, non è come te, no, capito? Io mi farò pagare perché devo fare differenziata io e loro ci godono, ma non volete, ma non tentate, ecco perché io sono sempre il contrario di questi che fanno loro. Sì, ho capito, adesso niente, adesso io mi sa che vi saluto e mi vado a preparare un po' di cena e poi più tardi alle 9 mi guardo la partita, c'è la Juventus che gioca e quindi l'Inter sta vincendo a Cremona 2-0, ho visto qua dal computer, più tardi mi guardo la partita, dai. Vi saluto, ciao Tonino, ci sentiamo i prossimi giorni sicuramente, e tanto già lo sai, sono a casa, e niente, ciao Antonio, e ciao a tutti quelli che sono in ascolto, se ci sono ovviamente, e Tore era entrato e poi non l'abbiamo più sentito, ciao anche a te Tore se sei in ascolto, io chiudo, dai, aspetto e sento il vostro finale, poi chiudo. Ok, ciao allora Carlo, non c'è problema, quando io appena capisco questo lavoro qua, diciamo, già ti contatto. Oppure anche la sera, da se sei libero, se sei libero, no, quando sono libero la mattina io, capito? Ok, d'accordo, buon corretti, alle prossime, stammi bene, Antonio, ripeti. Ecco, chiudo pure io, che devo andare a cucinare a mangiare. Ok, saluto Riccardo, ci sentiamo la prossima volta, ciao ciao. Non so se c'è Tore, ci sei? Sta più nessuno. Ok, io vado a cucinare, vado, ok? D'accordo Antonio, dai, ci sentiamo anche io, tanto lo chiudo. Ciao Carlo, pure se sei in ascolto, ciao Antonio. E buona cena, ci sentiamo, saluto di circolare agli amici che sono in ascolto. Ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao ciao, buona serata a tutti, alle prossime, ciao. Ciao Carlo. Ti metti un momento, perdonatemi, ma io ci avevo una telefonata molto importante, ce n'è nessuno? Ce n'è nessuno? a classe, provami a fare il mangiare, dimmi. Stavo detto scusate, ma stavate parlando, ho ricevuto la telefonata, ho voluto mollare. Non c'è più nessuno, caro, non c'è. Allora, è andato via perché doveva fare delle cose a casa, capito? Io mi lo stesso, dopo faccio il mangiare, perché devo mangiare, capito? Va bene, dai. Allora, buona cena a tutti e ci sentiamo, un saluto circolare a tutti, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao Claudio, ho sentito, avevo lasciato acceso e sono dentro che mi sto preparando da mangiare, alle prossime, ciao, buona serata anche a te Claudio, ci sentiamo. Ciao Carlo, ti volevo rispondere a questo altro telefono, senti che ha problemi a tirare il braccio, quello no, il quadrato, chiamiamolo così, a parte il fuori, lo puoi mettere anche in linea la ringhiera e non succede niente. È buono, meglio così, dai, così avrò più possibilità per sistemarla se dovessi metterla, grazie comunque, dai, ci sentiamo con più calma e così ti faccio sapere, anzi se scenderò in garage mi prendo bene le misure, vedo un po'. Ok, fammi sapere che lo facciamo assieme, tanto io sono libero, come c'hai una mattinata libera o una giornata libera, lo facciamo. Bene Meda, va bene, grazie Cla. Ciao Carlo, buona cena. E io altrettanto, buona cena, ciao a tutti di nuovo. Buonasera Claudio. Buonasera. Ebbene, dopo tanto ti risento, vabbè te l'avevo detto anche giorni fa, però non so tanto. Francesco sono, dimmi come ti arrivo lì in zona bassa. Bene, bene, più di nuovo Radio 5, ciao Francesco, ti ho riconosciuto e insomma ci stiamo rimettendo un attimino in forza, dai, giusto per rianimare questa 27 che stava morendo, stiamo un po' entrando la sera a farci due chiacchiere anche se ne ho poca voglia, ma comunque ci andrei uscire. Ok, saranno bene Francesco, però ti devo volare perché sono ai fornelli, lo sai che io sono mezzo cuoco e quindi sono entrato perché ero al telefono. Ok, fatti sentire Francesco, siamo qua la sera, non c'è problema. E ok, buona cucina, allora ci sentiamo, buon proseguimento di serata, ciao Claudio, ciao. Ciao, vai, saluto anch'io che stavo cucinando, ho sentito. Saluto di Francesco, vado quel moduli. E non lo sai da quel modulo, dalla collinetta, usilo. Cazzo di lusso, Urania, l'hai riconosciuto, Francesco Urania, qua mi arriva, siamo vicini, mi arriva una bomba, segnale più alto di tutti, cioè. Va bene, dai, vi lascio che sono impegnato. Ciao Francesco, un saluto, grazie per essere entrato, e fatti sentire, ciao. Ciao carissimo, buona serata, ciao ancora, ciao. Ciao, di lusso proprio, quasi 9 sei qua a Lappadocchi, a casa mia, un bel lontano, radio 5, ti sento bene, dai che ritorno a fare quello che stavo facendo, ciao. Ciao anche a te Antonio, ciao, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, ciao. Ciao a tutti.